Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Mi trovo in una città piccola ma molto affascinante, Città di Castello. Sono nella Val Tiberina, in un posto bellissimo dell'Italia, non molto lontano da Perugia. Questa città è ancora oggi intatta nella sua cerchia muraria, per esempio, piena di chiese, di palazzi, di campanili, di cupole. È stato uno dei luoghi più importanti per l'affermazione dell'arte di Raffaello Sanzio. Questa città si trova grosso modo sulla strada che da Urbino portava a Perugia, e quindi Raffaello si trovò molto giovane, oramai orfano di padre e praticamente capobottega all'età di 17 anni, ad avere una serie di commissioni proprio dalle chiese e dai personaggi viventi in questa piccola città. Se le opere fossero rimaste qui, sarebbe stato uno dei maggiori concentrati al mondo di capolavori di Raffaello, ma purtroppo, a partire dalle spoliazioni napoleoniche, i grandi capolavori che il giovane Raffaello ha lasciato in questa città se ne sono andati. Fa niente, possiamo fare un giro lo stesso, vivendo il fascino delle chiese, dei vicoli e dei palazzi che anche lo stesso Raffaello vide quando venne a consegnare le opere. E qui, per esempio, realizzò la bellissima incoronazione di San Nicola da Tolentino, una pala per la realtà sfortunata perché andò a pezzi a causa di un terremoto, e oggi non è più qui, ma la dobbiamo vedere sparsa, i frammenti sparsi nei musei d'Italia e di mezzo mondo. Poi realizzò una grande pala per una chiesa, una grande crocifissione, oggi detta la crocifissione Mond, perché si trova naturalmente in un museo anglosassone dove è finita per le storie del collezionismo, e che fu uno dei capolavori più importanti dell'artista. Poi addirittura realizzò una pala celeberrima che si trova a Milano, lo sposalizio della Vergine per la chiesa di San Francesco. Qui è ancora divertente vedere che c'è una lapide che piange la partenza di questo capolavoro verso la città di Milano. Resta un'opera sola nel Museo Cittadino, lo Stendardo della Santissima Trinità. Questo per fortuna si è salvato, anche perché è un po' rovinato. Comunque è un Raffaello autentico rimasto a Città di Castello. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.